Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. 16:32, Luca Tremolada al microfono, Nova Lab 24, Cristina Tagliabue, buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Ma molto, molto decisa, molto diretta. Oggi parliamo di un tema molto, molto tuo: bandi, contest, creatività, residenze creative. Eh sì, perché all'inizio non ce la si faceva più con questa parola creatività, no? Che è molto di moda oggi. Tra l'altro possiamo dire che poi tu un po' l'hai sdoganata sicuramente sul Sole 24 Ore con la pagina di creatività che è andata, che c'è su Nova, quanti anni fa? 5 anni fa ormai. Ammazza, quanto è tempo. Passato tanto tempo, sì, in realtà l'abbiamo copiata perché ne ha parlato Richard Florida di questa fatidica parola creatività che doveva in qualche modo risolvere il mondo dell'innovazione futura e quindi l'abbiamo inaugurata su Sole 24 Ore, che credo sia ancora l'unico giornale che peraltro ha una pagina dedicata. Una barra due pagine alla creatività, anche perché insomma è un po' nell'asse con la creatività, tutti vorremmo essere creativi, tutti in realtà siamo creativi, tutti nel piccolo e nel grande lo siamo, poi ci sono quelli che ne hanno fatto una professione. Alle volte ci si domanda che cos'è davvero la creatività, perché vuol dire tutto e vuol dire niente, no? Soprattutto quelli del mondo della cultura, old style chiamiamoli, alle volte si domandano ma davvero cos'è questa creatività. La creatività è mettere insieme tante cose differenti, tra cui sicuramente la tecnologia e sicuramente invece tutto quello che fa parte del mondo della cultura passata, no? Quindi il mondo del cinema, il mondo del visuale, il mondo della costruzione dei testi però innovativa, no? Quindi chiediamolo anche agli ascoltatori, 349-238-6666, cioè cos'è per voi la creatività e quanto è stata trattata male questo concetto, questa parola? Ma ora sentiamo le nostre news. Sì. Un aperitivo al museo. Dal 4 febbraio al 3 giugno inaugurano gli Happy Hours al Museo Civico di Zoologia di Roma. 10 appuntamenti dedicati alla fauna in pericolo di estinzione. Orsi, uccelli rapaci, toporagni elefante, iguane rosa e pipistrelli saranno solo alcuni dei protagonisti dei 10 appuntamenti dal 4 febbraio al 3 giugno, in cui si potrà discutere con esperti di settore su come proteggere la fauna in pericolo di estinzione sorseggiando un drink. L'ingresso è gratuito. Green Life, costruire città sostenibili. Apre al pubblico il 5 febbraio la prima mostra in Italia e in Europa che raccoglie il meglio dei progetti di architettura green, facendo vedere ciò che in Italia e nel mondo, Europa, Cina, USA, eccetera, è già stato realizzato o in corso di realizzazione nell'ambito della progettazione architettonica per creare ecosistemi urbani sostenibili per il pianeta. La mostra è alla Triennale di Milano e rimarrà aperta fino al 28 marzo. Oggi a Torino il primo appuntamento della rassegna Super Contemporanea. La mostra affianca il lavoro di diversi artisti nati negli anni Ottanta. L'atteggiamento ironico nei confronti dei tabù, la sperimentazione dei supporti e la citazione della storia dell'arte sono elementi che accomunano le loro ricerche, segnando le tracce di un possibile percorso all'interno della giovane arte italiana. L'appuntamento è dal 4 al 28 febbraio presso la Novalis Contemporary Art di Torino. Web Jam Session, 24 ore di contest non stop. La prima edizione italiana del Web Design International Festival è cominciata questa mattina presso NABA, Nuova Accademia di Belle Arti Milano. Un contest 24 ore non stop a cui partecipano 47 web designer divisi in 18 squadre che lavoreranno ad un progetto web che verrà presentato alle 15 di domani con un pitch elevator. Le due squadre vincitrici andranno di diritto alle finali internazionali del 3, 4, 5 giugno in Francia. L'evento è patrocinato dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'ingresso è gratuito e l'interattività assicurata. Sì, che poi tra l'altro Cristina, cioè io vengo dal WIF, da questo Web Design International Festival, e la cosa che non dico io ma che hanno detto esperti, creativi, pubblicitari, architetti e così, che la cosa che manca di più in Italia è l'interattività, cioè l'Italia è un popolo che non interagisce. è vero che manda tanto manda tanti SMS, però insomma si li manda in ristrette nicchie, cioè non c'è una capacità di comunicare in modo aperto, in modo interattivo, di ragionare la cultura in senso interattivo. Infatti dicevano anche le squadre italiane di web design che stanno creando nuove interfacce creative sono poche, tutto sommato stanno crescendo, ma è ancora una presenza sparuta. È strano perché in Italia si parla tanto e poi alla fine è difficile comunicare tra di noi, no? O comunque cambiare quel pezzo di noi che ci serve per accettare l'altro. Questo nella creatività è molto molto importante, perché alle volte mondi molto di cultura molto fossilizzata fanno fatica a interagire con mondi innovativi. Tipo il web design, che cos'è in realtà? È il design di una sedia applicato a internet, e quindi comunque lo studio grafico di qualcosa che non c'era e che interagisce con un tecnico, che è quello che ti mette sul sito. Se queste due persone non si parlano bene, no, è certo, difficile che venga fuori bene la cosa, no? Sì, tra l'altro l'altro concetto che era emerso è che Cina hanno trasmesso dei video cinesi su quello che sta succedendo nelle università, e sono interessantissime perché stanno inventando, non dico che ci stanno bagnando il naso, però stanno dimostrando che la creatività non si eredita, cioè non è geneticamente un patrimonio italiano, il design è qualcosa che resta in Italia, è un genius loci, diciamo, legato al nostro territorio nazionale. No, si sposta, occhio perché si sta spostando da altre parti. Però insomma, chiudiamo la parentesi, ne apriamo un altro, anche perché insomma creatività vuol dire anche soldi, finanziamenti, bandi di concorso. Perché per fare i creativi bisogna purtroppo, come dire, avere chi ti paga questa creatività. Quindi se da una parte Oliviero Toscani è diventato famoso con le sue pubblicità grazie al signor Benetton, oltre che produttore di moda, anche grande mecenate alla fine, oggi i giovani creativi, che sono molti di più e meno famosi di Oliviero Toscani, in realtà hanno bisogno di chi li aiuti a sviluppare le proprie chi arti. Paga, dai, esatto, diciamo, chi paga. Chi ci mette i soldi? Allora chi è che ce li mette i soldi? Beh, ci sono comunque degli enti diversi dal passato, comunque sempre più fondazioni, banche, istituzioni, in realtà stanno dando una chance, tra virgolette, a dei giovani che partite IVA, sì, o con associazioni. Con un tornaconto che è poi culturale, che dove c'è un indotto che poi immagina che io do soldi per la cultura perché credo che ci sarà un ritorno sull'immagine, che ci sarà un ritorno su quello che può essere l'indotto culturale, per cui l'intelligenza, la creatività, l'attivismo, qualcosa anche, che non è misurabile, diciamo. Ma anche sul territorio però l'indotto c'è, nel senso che alla fine se io penso per esempio al bando della creatività della provincia di Milano e della provincia di Roma che ci sono stati quest'anno, c'è un indotto sicuramente sull'immagine della provincia, quindi i politici, gli assessori eccetera, ma in realtà anche sul territorio, nel senso che i creativi poi agiscono, fanno delle cose all'interno della propria città. Certo, c'è una bella una interessante definizione di Alberto che ci scrive: i creativi sono i pubblicitari, gli stilisti eccetera, i creatori sono gli artisti. Ci piace. Anche se l'artista poi, chi è? Non lo so, non l'ho mai capito. Io poi fondamentalmente venendo dalla tecnologia c'erano sempre dei dubbi. Però è vero che ci sono delle professioni e poi ci sono persone che inseguono l'arte, inseguono altre cose. Però insomma, l'artista comunque, insomma, per risponderti, l'artista maledetto per antonomasia oggi è Morgan, mi spiace dirlo, già, però certo, voglio dire l'artista certo. Scandaloso, esatto, scandalosissimo è lui. Poi dopo gli altri artisti, beh, chi lo sono, chi dice che è artista a quel punto? Cioè essere artista vuol dire avere qualcuno che ti definisce e ti riferisce come artista. Ma non è avere un punto di vista diverso l'artista, cioè avere la capacità di guardare qualche cosa con un punto di vista, la stessa cosa con un punto di vista altro. Comunque magari lo chiediamo anche al nostro ospite. Noi abbiamo qui, che ci guarda con due occhi sgranati, Claudio Prati, direttore creativo di Now, che ci spiegherà subito che cos'è. Ma solo un secondo, buongiorno innanzitutto, buongiorno. Perché sentiamo la scheda su Claudio Prati. Nato in Svizzera, diplomato in scultura presso l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, nel 1986 si trasferisce a New York, dove studia video art e special project mixed media. Fonda l'associazione culturale Avventure in Elicottero Prodotti, collettivo artistico con cui realizza performance multimediali e organizza workshop di teatro, danza e nuove arti visive. Nel 1996 l'associazione si amplia con la nascita a Milano dell'associazione e compagnia di danza contemporanea Ariella Vidak. È con lei che svolge attività di insegnamento, tenendo laboratori dedicati a danza, multimedia e interattività a Milano e a Lugano. Il suo lavoro è la sua passione, il suo hobby, il suo interesse. Che altro? Allora, che altro? Che cosa sono i creativi? Ma i creativi sono delle persone che riescono ad applicare delle metodologie e ottenere dei risultati innovativi e un po' spiazzanti, un po' particolari, originali. Lei è un creativo? Ma io sono abbastanza sulla... condivido la definizione di Alberto, che dice che gli artisti sono dei creatori e diciamo la differenza sostanziale è che magari anche per farla in modo, esporla in modo semplice, i creativi sono più delle idee che sono un po' fine a se stesse e hanno una freschezza e un'immediatezza forte, ma una vita abbastanza breve. L'artista è un creatore di nuovi mondi e il linguaggio che riesce a definire e elaborare è un linguaggio universale, comprensibile da tutti. Ed è questo però scritto sulla carta. Poi di fatto, cioè, perché le fondazioni, cioè, Cristina ha un lunghissimo elenco qui con noi, stanno finanziando i creativi oggi? Ma io direi che finanziano anche anche i creatori, cioè è un finanziamento all'arte. Poi l'arte, l'artista può applicare la sua creatività a settori o a situazioni, diciamo, più commerciali, più redditizie anche da un punto di vista di risultato, cioè ottiene dei risultati che sono condivisibili e permettono di raggiungere dei risultati economici o commerciali. Quindi lei mi sta dicendo che, cioè, il creativo, cioè, ha un ritorno economico e anche una finalità immediata, più concreta, più materiale. Ma sì, io mi permetto di inserirmi perché abbiamo invitato Claudio Prati in quanto ideatore di Now, che è un progetto di residenza creativa finanziato dalla Fondazione Cariplo. C'è una differenza fondamentale, anche secondo me, cioè tra il mecenate, cioè colui che non ha interesse che tu faccia del bene se non, come dire, per la popolazione, per la civiltà, no? Per il mondo, il pianeta, e chi invece, come dire, ti paga perché tu promuova i suoi prodotti, no? Quindi ci sono i creativi pagati dalle aziende, niente di male, però è un po' diverso, no? Pubblicitario, chi lavora nel mondo dell'advertising, appunto il design stesso, e poi invece, cioè, ci sono gli artisti, quelli che davvero anche con 800 euro al mese, capito? Poi, ma lo fanno perché ci credono. E poi ci sono i Tremolad, che sono un'altra cosa ancora, che sono i giornalisti, mamma mia. Nova Lab 24. Nova Lab 24, 16:46, la annosa discussione su creativi, creatori e giornalisti e Florida e gente che si tira indietro da questo dibattito. Però facciamo parlare chi realmente le fa, chi lavora con i creativi. Claudio Prati, direttore creativo direttore creativo di Now. Cos'è Now? Allora, Now è un progetto dedicato ai giovani autori, ai giovani artisti, e presenta un programma biennale di laboratori e di residenze produttive interdisciplinari dedicati al rapporto tra le nuove arti performative e l'interattività. Cioè, da un letto al creativo, no. Da un luogo per lavorare al creatore. Attenzione, sì. Allora, cioè, il luogo per lavorare cosa vuol dire? Vuol dire che oltre che a fornire un percorso, noi vogliamo sostenere il giovane autore in un percorso che va dalle conoscenze specifiche, in questo caso delle nuove tecnologie interattive, Allora, quindi bisogna capire, io sono un giovane autore, io mi ritengo un giovane autore, sì. No? voglio una residenza, voglio venire da voi. Devi partecipare ad un bando che è stato aperto alla fine del 2009, devi essere selezionato, avere un background progettuale e realizzativo. Ma è questo che a me interessa, Cristina, cioè che cosa viene richiesto, cioè che cosa devo mettere nel curriculum per essere allora la selezione si basava su vari criteri, uno di questi era la formazione, il titolo di studio. Oh, attenzione, quindi che cosa serve? È una scuola d'arte o una scuola nella disciplina specifica che noi trattiamo, quindi coreografia, scuole di danza, performer, scuole di teatro, musicisti, scuole di musica, conservatorio e quant'altro, un designer, ecco, per intenderci, un laureato in giurisprudenza. No, grazie. Sì, se può, diciamo, presenta gli altri aspetti o elementi richiesti dal bando, vale a dire una produzione artistica, un'attività realizzativa significativa. Quindi, cioè, quindi se anche uno è laureato in chimica organica, però insomma ha una grandissima passione per la scultura, ha già fatto dei lavori, ha presentato allora le sue sculture in gallerie, presenta, noi abbiamo valutato il curriculum artistico, vale a dire attraverso un video e le opere a cui che ha presentato e agli spazi in cui ha presentato. Quindi lo accettate. Una volta accettato. No, io poi mi stavo domandando, tra l'altro, residenze creative, cioè oggigiorno tutti hanno una casa, no? Allora il fatto di mettere insieme tanti ragazzi in un luogo, che poi bisognerebbe capire, perché sono luoghi molto belli quelli che danno a disposizione queste fondazioni, mica sono brutti, cioè sono dei posti. Tipicamente, poi dopo mi corregga se sbaglio, però dove siete? Noi la residenza produttiva di Nao è al DID Studio, alla Fabbrica del Vapore. Noi abbiamo Milano, Fabbrica del Vapore. Ecco, e noi abbiamo uno spazio, noi avevamo presentato questo progetto all'epoca del bando, quando si è aperto il bando per la Fabbrica del Vapore, avevamo presentato questo progetto che si titolava DID Studio. Danza interattiva digitale, ecco, però, esatto, per poter creare un centro di formazione e di incontro per gli artisti che hanno focalizzato la loro attenzione sull'arte interattiva. Ecco, voi li riunite lì dentro, gli date da dormire? Sono previste nella Fabbrica del Vapore degli alloggi per le residenze. Ecco, è qui la domanda vera. Cioè, nel senso, e cosa, esatto, e poi? Cristina, cioè, cosa accade? Allora, il nostro percorso produttivo prevede, oltre alla formazione di competenze specifiche, anche poi delle permanenze e degli aiuti tecnologici e finanziari per la produzione del lavoro. Gli diamo i software, se abbiamo dei programmatori che possono sviluppare dei software, adattare altri software oppure crearne di nuovi, e degli hardware anche. Perché mi faccio capire, sto immaginando Fame da un certo punto di vista, ma non è Fame, non è la fabbrica del vapore, non nel senso vero del termine, cioè tanti computer uno vicino all'altro che fumano, noi abbiamo selezionato, faccio un esempio concreto, abbiamo selezionato 27 artisti di cui 9 stranieri. Questi artisti, giovani artisti, presenteranno dei progetti, vengono seguiti, sono pagati? Non sono pagati, la loro paga, tra virgolette, è la fornitura di materiale tecnologico e di... Quindi voi gli date semplicemente il pennello il viaggio, se abbiamo gente che viene anche da Israele. E quindi come si mantengono loro? Devono lavorare? Devono lavorare, la maggior parte di questi insegna. Cioè insegna ad esempio danza, oppure insegna design, programmazione, dipende qual è il loro background e qual è la formazione. Hanno già avuto una formazione professionale, quindi sono anche incentivati a utilizzare questo titolo di studio. E allora faccio la domanda del giornalista del Sole 24 Ore, siamo di corsissima, e qual è l'output? Cioè, che cosa produrranno questi ragazzi? Allora, che in questo caso la finalizzazione è nella realizzazione di progetti, opere multimediali innovative. Anche perché poi Cristina arriverà a controllare tutto. Assolutamente, certo. Figuriamoci, diamo anche il voto. Tra l'altro, io sono stata inserita in un sacco di comitati e giurie proprio per la valutazione di progetti qui creativi. Avete la taglia bue sul collo. Esatto, che... attenzione, attenzione. Io mi limitavo a dire semplicemente che, vabbè, ci sono tantissimi bandi. Io volevo segnalarle qualcuno, semplicemente, per esempio, la Fondazione Cariplo ieri come dire, ha presentato un finanziamento di 213 milioni di euro. Non soltanto nel 2010 verranno spesi tutti questi soldi. Hai 30 secondi, diamone un po'. Niente, semplicemente dico gli ambiti all'interno dei quali insiste il bando Cariplo sono ambiente, arte, cultura, ricerca scientifica e trasferimento tecnologici e poi servizi questo alla persona. Questo però non è più sull'arte, però insomma è più a vasto raggio. Diciamo che scusa in particolare... se interrompo, il progetto Now è sostenuto dalla Cariplo Fondazione. Ci stanno sfumando, ci stanno sfumando. Io ringrazio il progetto Now, ringrazio Claudio Prati. Ci promette di tornare, di portarci un output, fare qualcosa. Io l'ho chiamato output orrendo. Potrei portare giovani artisti, ecco, che avranno prodotto i lavori. Ovvio che è cattivissima Tagliabue. Ringrazio Cristina Tagliabue. Ciao a tutti. A domani.